Volevo chiedere, tanto che abbiamo già ascoltato le voci di Radio 24 e quindi sarebbe, immagino, utile ascoltare quelle dei nostri amici da casa, che invito a chiamarci al nostro numero verde 824 0024, di ricordare quali potrebbero essere i segnali da creare, tali da crearci un po' un sospetto di una voce affaticata, stressata, o di una voce con magari qualche che si trascina i postumi magari di un'influenza, di un raffreddore trascurato. Dottor Franzetti. Diciamo che ci sono dei segni che possono immediatamente far cogliere un affaticamento. Sì. Intanto una sensazione di tensione o di stringimento intorno alla muscolatura del collo, perché uno comunque quando sforza la voce usa tutta la muscolatura del collo. Sì. E questo già potrebbe già essere un segno. Poi il fatto che uno inizia a fare attenzione al fatto che ha bisogno di respirare di più e più spesso quando parla. Sì. E quindi non riesce a utilizzare a pieno il fiato quando lo prende. Sì. Perché altrimenti la voce scappa via, cioè cala, non riesce a tenerla, deve forzarla di più. E poi io farei sempre molta attenzione a come si respira col naso. Se respiriamo con la bocca aperta, col naso. Dottoressa Cantarella, un segnale importante da riferire, magari non dico al medico, ma di cui parlare oggi in trasmissione? Ma come si diceva, la sensazione di fatica, la sensazione di fiato che viene a mancare, i dolori muscolari al collo, alla laringe, alla faringe, quindi a tutta la muscolatura dell'apparato, addirittura nelle situazioni in cui c'è più fatica, addirittura un disturbo a livello della muscolatura respiratoria, della muscolatura toracica. Posso aggiungere il bisogno di schiarirsi spesso la voce? Sì. Possiamo aggiungere anche questo? Siete sicuramente, d'accordo? Sicuramente. Allora, se vi riconoscete, quindi tensione un po' a livello muscolare, collo e dintorni, un bisogno di respirare più spesso, respirate con il naso chiuso e quindi con la bocca aperta, oppure avete questa sensazione, quella che avverto io in questo momento, di raschiare un po' la voce, di tossire, chiamateci 824 0024 o scriveteci 349 238 6666. Una mela al giorno. Girare la chiave nella serratura, fare il nodo della cravatta, prepararsi un caffè o semplicemente spazzolarsi i capelli. Quanti di questi gesti abbiamo fatto da quando ci siamo svegliati stamattina? Per rispondere dovremmo pensarci un po', perché sono talmente naturali e semplici che li facciamo quasi senza accorgercene. Ma quello che per noi è una passeggiata diventa per alcuni un percorso d'ostacoli. Ed è quello che emerge da una ricerca Censis che ha messo in evidenza le difficoltà quotidiane dei malati affetti dall'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide è una malattia cronica, fortemente invalidante, che colpisce prevalentemente noi donne, che è ancora troppo spesso confusa con l'artrosi o altre malattie reumatiche e, quando insorge in età avanzata, viene ancora interpretata erroneamente come un acciacco della vecchiaia al quale rassegnarsi. E da qui l'esigenza di fare informazioni e soprattutto fornire a chi ne soffre strumenti e competenze per convivere con questa scomoda compagna di vita. In linea con noi abbiamo il professor Montecucco, che è ordinario di reumatologia all'Università di Pavia e presidente della Società Italiana di Reumatologia. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, la chiave di tutto è l'informazione a livello di opinione pubblica per fare luce su questa malattia che abbiamo detto è ancora spesso confusa e nascosta, ma è necessario anche informare chi ne soffre, perché oggi ci sono a disposizione tante terapie per migliorare la qualità di vita. Iniziamo dall'informazione sull'opinione pubblica, professore. L'informazione è fondamentale a più livelli. La prima è l'informazione dell'opinione pubblica, perché è importante che le persone sappiano di fronte a che malattia possono trovarsi e che quindi ai sintomi legati alla malattia abbiano un comportamento positivo per ritrovarsi dal medico e per farsi poi inviare dallo specialista. Secondo, l'opinione pubblica è importante perché è un movimento di contagio anche delle forme, delle istituzioni, perché diano la giusta importanza a questa patologia, che è una patologia invalidante, è una patologia socialmente rilevantissima. Ed infine l'informazione è importante per i malati, perché la gestione della loro vita, non solo della, quella terapeutica, quella farmacologica, ma proprio di tutta la propria programmazione di vita, va fatta tenendo conto delle caratteristiche della malattia e tenendo conto del fatto che la malattia c'è e che bisogna superare le difficoltà che la malattia pone. Professore, lei si faceva riferimento ai sintomi iniziali della malattia. Abbiamo detto che è una malattia che colpisce prevalentemente le donne, insorge tra i 30 e i 50 anni. Quali sono i sintomi sospetti? I sintomi sospetti sono il dolore soprattutto notturno e soprattutto alle mani, all'articolazione delle mani, con un gonfiore delle articolazioni, sì, e una rigidità al mattino, che non è di pochi minuti come succede spesso, ma dura più di mezz'ora, un'ora, a volte anche 2-3 ore al mattino. Una rigidità veramente che impedisce di svolgere le normali attività, di lavarsi, di togliere, quindi, salire una tapparella, una cosa del genere. Quindi molto invalidante. Estremamente. E direi che proprio per compiere il primo passo verso l'informazione attraverso servizi per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari, ma anche e soprattutto per aumentarne la conoscenza nell'opinione pubblica, che parte una campagna, si chiama Articolazioni, che con una serie di iniziative e di attività che si svolgeranno tra maggio e dicembre, quindi con la creazione ad esempio di un sito web informativo, si mette a disposizione un numero verde, psicologi e anche video in cui vengono spiegati proprio gli esercizi di riabilitazione per i pazienti, tutto questo per aiutare chi ne soffre a convivere in modo migliore con questa malattia. Io vi rimando al sito dell'ANMAR, che è il sito dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici, dove potete trovare tutte le indicazioni del caso, e ringrazio il professor Montecucco, che invito già qua a venire a trovarci per dedicare una puntata intera all'artrite reumatoide. Volentierissimo. Professore, buon lavoro e grazie. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. Torniamo a parlare della nostra voce. Devo dire che sono anche un po' imbarazzata, perché i miei esperti oggi sono in studio e vedo già che tra di loro sentono la mia voce e hanno molto da dire, perché è tornata ma non completamente. Magari nel corso della trasmissione ci suggerirete anche qualche esercizio per non sforzare troppo la voce, per riscaldarla, ma intanto arrivano diversi messaggi e Rosario da Roma mi fa tenerezza perché mi scrive: oggi sono completamente muto, sono un docente, devo correre dal medico, quanto tempo occorre per tornare normale? Dottoressa Cantarella, anch'io mi facevo le stesse domande di Rosario, in quanto torna la voce? È una domanda difficile, perché bisognerebbe conoscere un po' gli antefatti. Immagino che si tratti di una forma infiammatoria, visto che l'ascoltatore non dice altro, ma in genere in queste situazioni il recupero può essere anche rapido, nell'arco di un paio di giorni, ma è molto importante osservare il riposo vocale, e quindi sarebbe utile rinunciare agli impegni, chiudersi in casa in silenzio, fumenti della nonna, inalare vapore, bere tantissimo, bevande calde, ma soprattutto le corde vocali hanno bisogno di riposo, sono infiammate, sono gonfie, non sono in condizioni di vibrare. Se le mettiamo in vibrazione, il processo infiammatorio durerà molto di più. Adesso voi potete dire tutto quello che volete sulla mia voce, che è stata trascurata, sforzata, ma io in linea una voce, non dico a 5, 10, 15 stelle, quella di Alessandro Safina. Ciao Alessandro! Ciao, buongiorno! Parla tu Alessandro, perché se no qua i miei esperti mi fanno nera, come si dice. No, ma guarda, stava dicendo una cosa giustissima, il riposo è la migliore delle medicine. Senti, tu ti riposi spesso, la riposi spesso la voce, cosa fai per riposarla? Ti rubiamo un segreto. Guarda, fra un impegno e un altro, la cosa migliore veramente è il riposo. Poi io non sono maniaco di medicine, io non ne uso tante, sono anche fortunato, perché non tutti abbiamo lo stesso tipo di tessuti, la stessa qualità di vocale. Io cerco, quando sono impegnato, quando lavoro, cerco di fare vita sana, di mangiare bene, di non bere, di fare molta attività fisica e quando è possibile di fare un po' di silenzio. Ecco, questo è... Senti Alessandro... Non è niente di speciale, no, però sono le cose forse secondo me più importanti.

Naturalmente ci sono delle perplessità, come tutti sanno, perché c'è un dibattito etico molto intenso, c'è una da parte paura dello spettro dell'eugenetica, dall'altro l'opposizione alle cellule staminali embrionali, dall'altro il dubbio sugli organismi geneticamente modificati e così via. Quindi il dibattito è aperto, è per questo che sarà molto importante questa conferenza. Professor Veronesi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Eccoci, siamo tornati per parlare di voce, insieme a noi Alberto che ci chiama da Oristano. Buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ha sui ospiti. Buongiorno. Allora, molto spesso mi viene questo abbassamento di voce, mi viene anche raucedine. E naturalmente, va bene, respiro un poco anche dal naso, la notte russo, mi trovo la gola molto asciutta, mi trovo più delle mattine, mi sveglio anche la notte, naturalmente ho anche come bruciori alla gola e come prurito alla gola pure ho. Naturalmente vado all'uterino e cosa mi dà? Spray, anche nasale, spray per respirare. E in più, da un anno a questa parte, ogni volta che mi siedo a tavola, a pranzo, a cena, mi gocciola il naso, una narice. E non so perché da un anno a questa parte, però. Sì. Ogni volta che mi siedo a tavola, mentre cammino, che cosa? Il naso piange. Dottoressa Cantarella, come possiamo aiutare Alberto? Spray. L'uterino dà solo spray. Lei che cosa darebbe? Ma se c'è questa cattiva respirazione nasale, insomma il naso non svolge la sua funzione di filtro, di notte non purifica, non umidifica l'aria entra direttamente attraverso la bocca, le corde vocali vengono seccate, asciugate, che è la sensazione che Alberto ci ha riferito, e quando le corde vocali sono asciutte non riescono a vibrare. Dobbiamo pensare che in un uomo vibrano 100 volte al secondo, abbiamo 120 cicli vibratori al secondo. Se sono asciutte, non sono umidificate, questo non avviene. Quindi bisogna cercare di affrontare il problema nasale. Si potrebbe anche pensare, da quello che Alberto riferisce, il bruciore, l'irritazione, ad un ulteriore problema, magari la presenza anche di un reflusso acido dallo stomaco durante la notte, magari favorito ulteriormente dal russamento, e quindi andrebbe indagato e curato anche questo aspetto. Quindi affrontare il problema della cattiva respirazione nasale, la possibile quindi rinite, sinusite, Alberto ci riferisce anche questo sgocciolamento che lascia pensare probabilmente ad uno stato infiammatorio dei segni paranasali, probabilmente un ristagno di liquido all'interno dei segni paranasali. Quindi fare degli accertamenti radiologici sui segni paranasali, curare, magari affrontare il problema nasale, valutare se c'è un problema anche di allergia che facilita l'ostruzione nasale, studiare il problema del russamento magari con una polisonografia per vedere se Alberto ha anche delle apnee, e analizzare il problema reflusso. Anche perché abbiamo visto anche dalla descrizione, dottoressa Cantarella, che lei ha fatto per rispondere ad Alberto, che apparato respiratorio e fonatorio dipendono strettamente uno dall'altro. Se il naso non funziona, le corde vocali si asciugano, non vibrano, ed ecco spiegata questa voce che si abbassa, va e viene. Ma andrei a Pasqua, che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno, grazie prima di tutto. Dunque, io nel mio piccolo canto nel nostro coro parrocchiale. Ecco, sono direi forse tra le più importanti che cantano, modestamente. Brava Pasqua, peccato che non ha chiamato quando c'era Alessandro Safina. Così glielo presentavo. Vabbè, comunque, quasi. Va bene. Ecco, il mio problema è sempre quel po' di catarro che mi si forma in gola. Sì. Sento sempre il bisogno, la necessità di raschiare la gola. Qualche volta uso qualche caramella, a parte che cantare con la caramella in bocca non si può assolutamente. Vabbè, però.

falsettante, una voce molto acuta per compenso. La logopedista l'ha molto ben riportata, perché dicevamo il ruolo del logopedista è fondamentale in queste patologie, sia disfunzionali sia anche organiche, legate cioè proprio ad un'alterazione congenita o acquisita delle corde vocali. L'ha riportata su una tonalità adeguata per una voce femminile, ma non ha certo potuto cambiare l'anatomia delle corde vocali, quindi probabilmente le corde vocali non si chiudono perfettamente. Lei usa tanta aria durante la fonazione, questo la porta alla sera o in determinate situazioni ad essere un po' affaticata, infame d'aria. Il consiglio è quello di parlare lentamente, darsi delle pause, non usare un volume troppo elevato della voce e magari ricontattare una logopedista, perché qualche esercizio di recupero, di rinforzo, comunque magari fare una laringostroboscopia per valutare se c'è questo sulcus. Andiamo ad Antonello, che ci chiama dalla provincia di Cagliari. Buongiorno. Buongiorno a lei, Antonello, e ai suoi ospiti, e complimenti per la trasmissione. Grazie Antonello. Io ho questo problemino, io dopo che finisco di mangiare sento la necessità di raschiare in gola, come se di schiarire la voce, come se avessi qualcosa che mi impedisce. Preciso che soffro un po' di esofagite, non so se può avere un nesso con tale sintomo. Beh, lo chiediamo al dottor Franzetti. Dottore. Allora Antonello, intanto non ha un tumore. Ecco. E questo mi sembra già un bel passaggio. Poi quel fastidio che si ha spesso dopo mangiato, in parte può essere legato, se uno ha un pochino di reflusso gastroesofageo, in parte può essere legato a un po' di rilassamento delle corde vocali. Per cui io non mi preoccuperei, e non è sicuramente una patologia. Se dovesse diventare un fastidio molto molto importante, allora si possono prendere degli antiacidi o comunque fare un pochettino di ginnastica respiratoria. Io andrei rapidamente, abbiamo un paio di minuti e volevo anche sentire Roberta dalla provincia di Bergamo, che è in linea. Ma un tumore, i grossi fumatori, forse con la coscienza un po' sporca, con le variazioni di voce eccetera, preferiscono fare un po' gli struzzi, non andare a farsi vedere perché si teme il famoso buco, no? La voce, degli interventi molto invasivi, e quindi di cui ogni tanto ancora nei tempi passati si vedevano. Adesso l'indicazione è questa: fatevi vedere in qualunque sospetto, perché gli interventi sono molto meno demolitivi. Dottoressa Cantarella, conferma? Penso che questo sia un messaggio importante da dare al pubblico. Ancora oggi ci arrivano delle situazioni di tumori delle corde vocali molto avanzate. L'ultima paziente che abbiamo operato nel mio ospedale era disfonica, aveva un'alterazione della voce da più di 2 anni, era un'ex fumatrice, non si è fatta visitare, un po' per trascuratezza ma molto per paura. Oggi abbiamo il laser che ci permette di fare degli interventi in endoscopia assolutamente conservativi anche per carcinomi estesi delle corde vocali, con dei risultati eccellenti, quindi con conservazione della voce, con trattamento fonochirurgico. Quindi niente paura, parlatene, andate a farvi fare un controllo. Roberta dalla provincia di Bergamo, un secondo, perché sto per chiudere, ma volevo salutarla e aiutarla se possibile, mi dica. Buongiorno. Grazie. Per cortesia, un'informazione per quanto riguarda i bambini. Sì. Io ho 5 figli, cerco di educarli per quanto riguarda la voce, di mantenere la voce bassa, di parlare abbastanza piano. Magnifica. Volevo sapere se magnifica super mamma con cui chiudiamo la nostra trasmissione, un consiglio a testa dei miei esperti, perché stiamo sforando. Dottor Franzetti, rapidissimo. Allora, prima di tutto è giusto non gridare, soprattutto per la mamma, e poi bisogna insegnare che la voce è un dono e quindi bisogna trattarla bene. Dottoressa Cantarella, anche lei da mamma, cosa può aggiungere? Mi associo, dare buon esempio vocale, evitare che si parli quando c'è tanto rumore, e mi sembra comunque che la signora sia su un'ottima strada. Grazie ai miei esperti, a voi che siete intervenuti e ci avete ascoltato, grazie, e appuntamento domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.